Periferie, ghetti, no-go zone, le città europee evolvono, cambiano e sono plasmate anche dall'immigrazione. Come i flussi migratori disegnano le città e in particolare le zone periferiche? Come sono gestiti i nuovi arrivi e con quali differenze tra paese e paese? Esiste una pianificazione? Esiste una gestione? Benvenuti in questo programma. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Au démarrage, ce sont des analphabètes religieux. Non esistono ricette di nessun genere, né per un fenomeno di questo genere, né per altri che si erano creati negli anni passati. Una buona serata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano. I saluti vi arrivano anche da Antonio Tali e Elisa Pancaldi, che scrivono con me questo programma, da Andrea Roccabella, che gli darà musica e ritmo anche in questa nuova puntata. Di cosa parliamo questa sera? Beh, lo diceva la copertina, periferie, ghetti, le cosiddette no-go zone, di recente interesse anche da parte del presidente americano Donald Trump, e mi riferisco a quella gaffe tutta svedese. È indubbio che i recenti flussi migratori hanno contribuito a plasmare, a far evolvere, a cambiare anche l'urbanistica delle nostre città. In che modo e qual è l'impatto? Esiste una maniera virtuosa per una buona gestione di questo tipo di flussi, anche dal punto di vista sociale, dell'inclusione, urbanistico? Sono le domande a cui cercheremo di dare una risposta questa sera. Vi ricordo che potete commentare anche questa puntata su Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. In questo viaggio attraverso le periferie o le zone più calde, se volete, in Europa, vi porto innanzitutto alle porte, scusate il gioco di parole, di Bruxelles. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance. Perché vi porto a Molenbeek, appunto, piccolo comune alle porte di Bruxelles, che è separato dalla capitale belga appena da un canale, sono poche decine di metri. Eppure, secondo la narrativa comune dei media, passato quel canale, cambia davvero tutto. Molenbeek è un interessante caso di scuola perché ha vissuto parecchie ondate migratorie. La prima, quella italiana, erano gli anni delle miniere di carbone, poi l'arrivo dei marocchini, e adesso passeggiare tra Chaussée des Gains e la Place Communale è come passeggiare una cittadina del Rif. Si sente parlare arabo, in particolare il dialetto appunto di quella regione, si mangia couscous e tagine, e durante il Ramadan la maggior parte degli esercizi commerciali è chiusa. Questi aspetti, questi scenari urbani sono al centro della puntata In Nessun Luogo è Lontano, scenari che a volte, facendo alcune centinaia di migliaia di chilometri, cambiano radicalmente e diventano, se possibile, ancora più ricchi. Spostandosi, muovendosi verso nord, andando fino in Svezia, la prima città svedese, passato il ponte con Copenaghen, è la città di Malmo. E lì c'è un quartiere che si chiama Rosengård, che forse, se tra gli ascoltatori c'è qualche appassionato di calcio, di sport, sicuramente ricorderà che è il quartiere dal quale proviene il noto calciatore Zlatan Ibrahimovic. Ebbene, il motto di quel quartiere è: puoi uscire da Rosengård, ma non riuscirai mai a far uscire Rosengård da te. È come se quel quartiere desse un imprinting, marchiasse a fuoco chi ci abita e chi ci vive. Quanto la narrativa, quanto la disinformazione ha distorto i contorni di questa area urbana, dove si parlano, pensate, 88 lingue, la presenza maggiore è quella irachena, ma anche somala e bosniaca, frutto di diverse ondate migratorie. Io e Antonio Talia ci siamo stati per parecchi giorni alcune settimane fa e abbiamo toccato con mano innanzitutto le gaffe di Trump. Ricordate che evocava un attentato che poi non era mai avvenuto, ma che poi in realtà quasi come una profezia autoavverante sì, è stato il preludio a episodi drammatici. È vero che anche le stesse autorità svedesi hanno battezzato il quartiere di Rosengård come una delle 55 no-go zone, cioè zone particolarmente calde, particolarmente a rischio, spesso in mano alla criminalità. Scusate. Le ragioni? Secondo i più, l'alto tasso di immigrazione mal gestito, la bassa scolarizzazione, poche scuole, pochi centri di aggregazione giovanili, insomma un humus fertile per episodi di devianza e di criminalità. Proprio a Rosengård, nell'unico centro di aggregazione per giovani con l'unica palestra di tutto il circondario, abbiamo conosciuto Robert Sundell, è un ex campione di MMA, Mixed Martial Arts, immaginatevi un misto tra pugilato, Thai Box, Jiu Jitsu e chi più ne ha più ne metta, insomma un'arte marziale piuttosto tosta. Oggi nella sua palestra Frontier allena i ragazzini alle arti marziali proprio per sottrarli alle cattive compagnie grazie appunto allo sport. Siccome il problema principe di Rosengård assieme ad altri quartieri di Malmo è il problema delle gang di strada, pensate attacchi con granate, un altissimo tasso di presenza di armi da guerra come Kalashnikov ma anche pistole, hanno fatto nel solo quest'anno quasi 10 omicidi, l'anno scorso 42 attacchi con granate, insomma la situazione è piuttosto seria. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma rimanete con me perché è ora di entrare nella palestra di MMA lì a Rosengård con Robin Sundell, subito dopo la pausa. Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Come vi dicevo, è il momento di tornare a Rosengård, quartiere caldo, tosto, difficile di Malmo, città del sud della Svezia. Perché? Perché Rosengård, come alcuni altri quartieri di Malmo, soffrono la presenza di gang di strada, sono immigrati di terza generazione, molto spesso con percorsi scolastici disastrosi, molto spesso vicini già ad ambienti criminali, con situazioni familiari disagiate. Cosa è accaduto in quei quartieri svedesi? Cosa non ha funzionato? Cosa invece ha funzionato, per esempio, è la palestra di Robert Sundell, che è un ex campione di MMA. Sentite come definisce la situazione delle gang di strada nel quartiere di Rosengård. In the gangs. I mean, when I was young. Questa sottocultura che caratterizza le gang. Sapete, quando ero giovane, anch'io ho avuto dei problemi con la giustizia. Conosco il tema in prima persona. Insomma, si tratta di una certa maniera di comportarsi, un certo modo di camminare. Vuoi essere notato, vuoi farti sentire, vuoi acquisire un certo tipo di fama. Tra le gang di strada è tutta una questione di reputazione e di come ti posizioni in una gerarchia. È tutta una gara a chi è il più forte, il più duro, chi è il capo. Invece in una palestra come Frontier, in un posto dove ci si allena duramente, si impara l'autodisciplina, si può creare un ambiente positivo nel quale a ognuno viene concesso di trovare il suo spazio. I ragazzi possono mettersi alla prova e sul ring, a differenza di quando sei inquadrato in una gang, non rischi di uccidere nessuno. Non ci sono tradimenti e pugnalate alle spalle. Nessuno esclude nessuno. A ognuno è concessa una possibilità qui. No, nobody excludes nobody. Molto spesso lo sport è un aiuto. È un aiuto perché sembrerà retorico, ma ti tira veramente via dalla strada. Cosa accade però quando in palestra a un certo punto, tra un combattimento e l'altro, l'allenatore capisce che uno dei ragazzini potrebbe prendere una cattiva strada, potrebbe avvicinarsi alle gang? Sentite Robert Sundell. I would like to say that I can spot them and see them. Mi piacerebbe poter dire che sono sempre in grado di capire se mi trovo davanti a una mela marcia, ma i miei ragazzini si allenano 2-3 volte alla settimana, Quindi anche una mela marcia può sembrare sana, ma di solito non riesce mai a farlo per molto tempo. Finisce sempre con lo squalificarsi da sola. Però abbiamo anche dei ragazzi che all'inizio cominciano come mele un po' toccate e poi riescono a diventare buone. In un quartiere come questo tutti i ragazzini sono a rischio e capita spesso di iniziare guardando qualcuno e pensare: «Ehi, questo tizio è così figo, guarda che orologio costoso che ha, guarda quanti soldi può spendere». E quindi finisci col fare una scelta sbagliata. A volte diventa come una valanga. Se sei esposto a questi comportamenti in un quartiere come Rosengard, hai più possibilità di incontrare la persona sbagliata. You stand the chance of meeting the wrong persons, of course. J'ai pas besoin de leur bénédiction, j'ai pas besoin de tape sur l'épaule. Enfin, j'ai la thug ambition, j'ai trop de haine pour un seul homme. Enfin, j'prends la zone à témoin, j'pisse sur la gloire et les lauriers. C'est pas l'or qui m'amène, les lions ne portent pas de collier. Enfin, j'ai pas de vision. E sulle note, sulle rappate di Cats Rubio, che è uno dei rapper emergenti forse più noti, se volete, sulla scena belga, lui, il giovane rapper, a proposito di etichette, di stigma verso certi quartieri, verso certe periferie, ha sempre lottato contro una Molenbeek definita usine de jihadiste, fabbrica jihadisti, come una zona di non diritto, una zona pericolosa in cui non poter andare. Io ricordo qualche anno fa, prima che iniziassi a lavorarci, quelle dirette da parte del canale americano Fox, in cui la giovane inviata faceva le dirette appunto dalla piazza comunale in pieno giorno con due guardie del corpo, perché secondo appunto i colleghi americani il posto era troppo pericoloso per recarsi da solo. Contro questa etichetta, io stesso devo dire lotto contro questa etichetta, lo fa appunto con le note, con il rap, con i versi, Cats Rubio. Ma torniamo appunto a Molenbeek grazie a queste note, lo facciamo anche andando, passando quel canale di cui vi dicevo, quindi andando poi a Bruxelles Centro, arriviamo al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università e andiamo a parlare con un ospite che è molenbeekoise, è di Molenbeek e ha un punto di vista particolare, interessante, su questo piccolo comune. Je m'appelle Fatima Zibou, je suis chercheuse en sciences politiques et sociales. Mi chiamo Fatima Zibou e sono ricercatrice in scienze politiche e sociali. Lavoro su immigrazione, diversità e multiculturalismo. Sono nata e cresciuta a Molenbeek e sono molenbeekoise da tre generazioni. Tre parole per definire Molenbeek: diversità culturale, colore e infine segregazione socio-economica. Molenbeek è conosciuta come un luogo che ha vissuto diverse ondate migratorie. Da sempre sono arrivate popolazioni diverse e una volta che miglioravano la loro condizione economica, queste venivano rimpiazzate da altre ondate migratorie, da altre comunità più povere. Ora ci sono i marocchini, prima c'erano gli italiani, prima ancora i polacchi e prima ancora i fiamminghi. Oggi molti arrivano dall'est ed è chiaro che si tratta di un fenomeno ciclico. La città di Molenbeek evolve socialmente ed economicamente. Nell'Ottocento Molenbeek era chiamata la piccola Manchester perché durante l'industrializzazione c'era una grande presenza operaia. Insomma, non è mai stata una cittadina ricca, ma popolata da proletari e lavoratori. Ma piuttosto par des personnes qui sont pauvres, issus du prolétariat et ouvriers. Je me demande combien d'honneurs peut valoir un million. Frère, nique sa mère, Broadway et Hollywood Boulevard. Allora, se Fatima Zibou, ricercatrice in scienze politiche e sociali all'Università di Bruxelles, molenbeekoise, l'avete sentito, da tre generazioni, richiama l'anima industriale appunto di Molenbeek, noi con queste note, con questo rap di Cats Rubio, in realtà richiamiamo un altro fenomeno molto interessante, che è proprio l'aspetto di fucina di rapper, perché questo comune di 95.000 abitanti, quasi la totalità sono in effetti marocchini, un'ottima percentuale, sta sfornando una serie di giovani rapper, di giovani talenti. I problemi però, secondo la ricercatrice, certo ci sono, non si nasconde dietro un dito Fatima Zibou, sentite quali sono i problemi di Molenbeek. Un tasso di disoccupazione altissimo che in certi quartieri arriva al 60% e che tocca a molti giovani che sono poco qualificati. Pochissimi studiano e arrivano alla laurea e quindi i veri problemi strutturali sono legati al lavoro, alla formazione e all'assenza di una reale integrazione culturale. Le comunità, infatti, stanno tra di loro e non mettono in discussione i codici culturali importati. C'è poi un problema politico, e cioè che non si guarda alla Molenbeek del futuro. Molenbeek è un laboratorio formidabile per sperimentare la coabitazione tra diverse culture. Ora bisogna sostenere questa sfida. C'est vrai que si le politique ne prend pas ses responsabilités. I politici non si prendono le loro responsabilità. Ci vuole un investimento, altrimenti le conseguenze saranno disastrose. Allo stesso tempo, i cittadini devono riappropriarsi di Molenbeek per proporre altre cose, un'alternativa. Quanto al pericolo di una presa del potere da parte di pericolosi islamisti, non penso sia un pericolo reale, perché gli estremisti di certo non vogliono partecipare alla vita cittadina. Loro vogliono seminare odio. Ma ripeto, sono i cittadini di Molenbeek che devono prendere in mano il loro avvenire, e dopo alcuni terribili avvenimenti, a novembre abbiamo assistito a una grande mobilitazione con iniziative artistiche e culturali da parte di tutta la cittadinanza. Per cui sono fiduciosa. La sfida si pone per tutte le società post-migratorie, come in Francia, Italia e Belgio. Come gestiamo questa diversità culturale? Come rispondere alla crescente povertà dopo la crisi del 2008? Molenbeek ha oggi una nuova popolazione marocchina che arriva dall'Italia e dalla Spagna per fuggire dalla crisi economica. Parliamo quindi di una nuova popolazione sempre marocchina, ma diversa da quella già presente. Io credo che il mondo accademico debba riflettere, così come i politici e soprattutto gli attori del mondo associativo. Credo che tutti insieme si possa trovare un modus vivendi e una risposta a questa grande sfida. On peut essayer peut-être de trouver un modus vivendi de ce défi. E con le parole di Fatima Azibou, ricercatrice in scienze sociali all'Università di Bruxelles, uno sguardo privilegiato su Molenbeek. Facciamo una piccola pausa, chiudiamo il capitolo belga. Tra poco, subito dopo la pausa, montiamo il grand'angolo e cerchiamo di descrivere una situazione un po' più generale che attiene sia alla sociologia che all'urbanistica. Lo faremo con la professoressa Antida Gazzola, che insegna sociologia urbana all'Università di Genova. Piccola pausa, state con noi, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Oh, caro Giovanni Capuano, dove passerai quest'estate? Che piani hai? Carlo, io sono qui a Radio 24, sempre convocato quest'estate. Tu? Ci mancherebbe altro, la stessa cosa, sempre convocati ogni giorno dal lunedì al venerdì. Sì, perché racconteremo la lunga preparazione alla nuova stagione del calcio, ma non solo, perché come ogni estate ci sono tantissime cose. Ma le grandi corse ciclistiche che ci stanno appassionando come non mai, e così i mondiali di MotoGP e Formula 1, insomma, c'è un mondo dello sport tutto da raccontare e tutto nel nostro stile. Quindi accompagneremo le vostre vacanze sempre in diretta a partire dalle 14, tutti convocati per tutta l'estate. Nessun luogo è lontano. Una buona domenica e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano e questa puntata di questa domenica sera vi sta portando un po' in giro per l'Europa, soprattutto attraverso le periferie. Termine forse un po' abusato, forse un attimo allargare il suo significato, perché stiamo raccontando più in generale quelli che comunemente vengono detti ghetti o no-go zone, per riferirsi alla situazione svedese, cioè tutte quelle aree che nella recente storia sono state mal gestite, che hanno subito il fenomeno migratorio senza alcuna pianificazione, senza alcuna gestione. Attenzione, non per dire che di per sé il fenomeno migratorio porti ovviamente a episodi di devianza, però come hanno dimostrato alcuni casi, sicuramente in Francia, in Belgio e in Svezia per esempio, la mala gestione ha portato a episodi di emarginazione che poi sono sfociati anche in episodi di criminalità. Vi faccio sentire la voce della professoressa Antida Gazzola, docente di sociologia urbana all'Università di Genova, perché per anni la professoressa ha lavorato sul tema delle periferie, e noi, siccome stiamo più in generale descrivendo come l'immigrazione stia plasmando le città europee e molto spesso i nuovi arrivati, come dire, vanno ad abitare attorno al centro cittadino, lontani dal centro cittadino, non nel cuore della città, molto spesso si assiste alla nascita o alla crescita di periferie che sono luoghi molto spesso appunto sensibili. Qual è il legame tra immigrazione e città urbanistica, periferia, secondo la professoressa Gazzola. Sentite. L'immigrazione è un fatto che si è sempre verificato da che ci sono le città, perché c'è sempre stata una popolazione che da qualche parte entrava nelle città. Il problema che abbiamo noi oggi per quello che riguarda la crescita urbana in relazione all'immigrazione di persone che provengono da altre parti, non più soltanto di uno Stato, quella tradizionale era l'immigrazione dalla campagna alla città. Adesso abbiamo un'immigrazione variegata, nel senso che ci sono immigrazioni interne, immigrazioni esterne, immigrazioni da paesi sviluppati, immigrazioni da paesi in stato di crisi. Quindi il problema è quante persone entrano di colpo in un'area urbana. La risposta della gestione generale della città a questo ingresso, ma soprattutto un altro elemento che caratterizza la nostra civiltà odierna, è la velocità. In pochi momenti c'è stata una simile rapidità di ingresso di numeri elevati di popolazione in certi ambiti. La seconda domanda per la professoressa Antida Gazzola, docente di sociologia urbana all'Università di Genova, è: quali sono le soluzioni per evitare la creazione di ghetti? La risposta è stata per molti anni, soprattutto in Francia, il famoso mito della mixité, cioè di mescolare un po' l'idea del melting pot, anche se era un po' diverso, americano, l'idea di mescolare le persone provenienti da vari luoghi proprio per evitare che si formassero delle sottoculture che possono, non necessariamente, ma possono diventare sottoculture devianti. Anche nel rapporto tra omogeneità e disuguaglianza, anche disuguaglianza positiva, la mixité è una forma di disuguaglianza positiva, esiste una soluzione migliore, esistono soluzioni al plurale migliori di altre. Nessuna delle due, la totale omogeneità o la totale disuguaglianza, hanno mai risolto nessun problema. Peraltro, quello che ho visto è che, se mi permette l'espressione colloquiale, la gente digerisce tutto. Cioè, ci vuole un lasso di tempo sufficiente, ma poi ci sono dei meccanismi spontanei di adattamento. A meno che non intervengano dei fenomeni che per la loro rapidità e dirompenza non guastano questo periodo lungo, però poi tendente a dare dei risultati positivi, come si verificano, come si possono verificare normalmente. E la chiosa della professoressa Gazzola, che lo ricordo insegna sociologia urbana all'Università di Genova, è piuttosto, come dire, sconfortante. Esistono sì o no ricette per una buona inclusione? No. Non esistono ricette di nessun genere, né per un fenomeno di questo genere né per altri che si erano creati, si erano visti negli anni passati. Era la professoressa Antida Gazzola, docente di sociologia urbana all'Università di Genova. Adesso è ora di togliere il grandangolo che abbiamo messo per cercare di analizzare in generale il fenomeno, quel legame appunto tra immigrazione e periferie e piani urbanistici. Adesso vi porto però in Gran Bretagna. E vi porto in Gran Bretagna perché, al di là degli ultimi fatti tragici, gli ultimi attacchi terroristici tra Manchester e Londra, forse i più attenti ricorderanno anche, ma gli eventi si susseguono a volte con una velocità tale che la nostra memoria fatica ad andare a recuperare eventi anche drammatici, come ricordate le rivolte a Tottenham nel 2011, che poi si estesero anche alla città di Birmingham. Ebbene, come la Gran Bretagna ha gestito, ha accolto i nuovi arrivati? Ha favorito o meno la creazione di ghetti? E se sì, in che misura? Tutte queste domande le abbiamo rivolte a Ludy Simpson, che è sociologo esperto di demografia dell'Università di Manchester. La prima domanda per lui è fondamentalmente la domanda principe di questa puntata di Nessun Luogo Lontano: come l'immigrazione sta condizionando il futuro delle nostre città e delle nostre periferie? La Gran Bretagna ha delle enclave o dei ghetti, volendo usare un termine non proprio seducente all'interno delle città. Cosa è cambiato nelle città della Gran Bretagna dal 2013? Sentite Simpson. I cambiamenti stanno avvenendo a partire dagli ultimi 30 anni, credo. E possiamo dire che attraverso i secoli la Gran Bretagna sia diventata sempre più cosmopolita attraverso l'immigrazione proveniente da diverse nazioni. Questo è stato più evidente a partire dagli anni 60, con l'arrivo in un primo momento di migranti provenienti dalle ex colonie del Regno Unito, e poi da altri paesi con minoranze sempre più diffuse nelle città. La seconda domanda per il professor Simpson è: in che modo i recenti flussi migratori stanno modellando le periferie e qual è l'impatto, appunto, che provocano nelle città? L'impatto è che le città diventano sempre più variegate. Lei sta parlando delle periferie, ovvero di zone al di fuori del centro città. Bisogna pensare che nei secoli precedenti gli immigrati come gli ebrei, come gli irlandesi e come molti altri si stabilivano nelle città in cui si potevano trovare facilmente un lavoro e una casa. Poi, in seguito, hanno iniziato a spostarsi nelle periferie e queste sono diventate sempre più eterogenee, con la conseguenza che la diversità si è diffusa geograficamente in tutta la Gran Bretagna, fenomeno che è senza dubbio evidente negli ultimi 30 anni. Ciò ha reso più facile per gli esperti studiare la composizione etnica di ogni quartiere di ogni città. È sempre il professor Ludi Simpson dell'Università di Manchester. Visto che all'inizio di questa puntata di Nessun Luogo Lontano vi abbiamo portato a Rosengard, uno dei quartieri più caldi della Svezia, abbiamo in qualche modo, non dico indicato un benchmark negativo della mala gestione, però sicuramente Rosengard a Malmo è un caso di non ottima gestione a livello appunto sociale e urbanistico. E in Inghilterra il professor Simpson pensa che ci sia il rischio che si creino dei ghetti o delle no-go zone, come appunto in Svezia. Sentite. I ghetti sono qualcosa che è stato inventato e costruito da certi editorialisti. In realtà in Gran Bretagna non ci sono dei ghetti, se per ghetti si intendono luoghi in cui si stabilisce una certa comunità e altre decidono di andarsene. Non esistono posti così in Gran Bretagna. Insomma, il professor Simpson tende a rifuggire certe narrazioni mediatiche e certe drammatizzazioni di certe appunto situazioni, però ricordando il caso di Molenbeek, questa città di quasi 95.000 abitanti ad altissimo tasso di presenza di marocchini, in cui a un certo punto in certe strade davvero ti sembra di essere in Marocco, senti parlare il dialetto del Rif e sei totalmente immerso nella cultura marocchina. La domanda per il professor Simpson è: non è pericoloso creare questi pezzi di altri paesi nel cuore dell'Europa? Non è di per sé ghettizzante? Sentite cosa ha detto. Io non ci vedo nulla di sbagliato. Ho sentito da lei solo cose positive. Per me questo è il punto. Sento certi commentatori ed editorialisti dire: oddio, ci sono stranieri in questa zona, e includono anche i bambini che sono nati lì. Inoltre, non dimentichiamoci che in un modo o nell'altro siamo tutti stranieri. Questo è il problema, secondo me, ovvero creare una cultura della paura. Credo che ci siano altri problemi da affrontare, non di certo confrontarsi con lingue o culture diverse, perché questo c'è sempre stato, e non è una cosa nuova. La città che ha menzionato lei non si trova in Gran Bretagna, ma posso dirle che, stando alle mie ricerche, molte zone della Gran Bretagna stanno diventando sempre più multietniche. E le aree che vengono identificate come ghetti da certi commentatori sono zone multietniche, in cui i bianchi che si trovano in Gran Bretagna da più generazioni iniziano a convivere con persone di altre origini. E questo è visibile nelle città e sta diventando sempre più visibile nelle periferie. Ciò che non mi stupisce è che la diversità di fatto è l'opposto della definizione di ghetto. È importante fornire una definizione di ghetto, ossia un luogo dal quale non è possibile scappare se gli abitanti lo volessero, e nello stesso tempo un luogo che vieta o rende difficile l'accesso dall'esterno. Ora, questo non è il caso delle città della Gran Bretagna, e ciò risulta dagli studi accademici e dall'esperienza. Inoltre c'è da dire che molte persone, soprattutto i giovani, si stanno trasferendo fuori dalle città perché hanno più risorse e possibilità e desiderano vivere in un luogo che per antonomasia è più bello rispetto alla città. E l'ultima domanda per il professor Simpson è, secondo lei, qual è stato l'approccio della Gran Bretagna per evitare appunto che si creassero i cosiddetti ghetti? Sentite. Non credo che abbiamo evitato in qualche modo la creazione di ghetti. Credo che la Gran Bretagna abbia delle ottime leggi antidiscriminazione che impediscono a enti privati di praticare discriminazioni e ciò ha facilitato l'integrazione. Ma va detto anche che il continuo spostarsi da una zona a un'altra è un fenomeno diffuso in tutta Europa, non solo nel nostro paese, così come anche il fiorire di nuove comunità all'interno di una città. E questa era la fotografia che ci ha restituito Ludi Simpson della situazione in Gran Bretagna, del legame tra immigrazione e assetto urbano. Adesso una piccola pausa, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano, è il momento di andare poi, dopo la pausa appunto, in Germania e in Francia. State con noi. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presento. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ultima tappa del nostro viaggio attraverso l'Europa, in particolare attraverso le periferie delle città europee. Come le città stanno reagendo ai nuovi flussi migratori, come si stanno plasmando, quanto le amministrazioni locali reagiscono in maniera virtuosa oppure viziosa, quanto e come si formano ghetti. In quei ghetti possono accadere fenomeni di emarginazione, possono accadere fenomeni che i criminologi chiamano devianza, e dalla criminalità spicciola si può anche passare a fenomeni di criminalità più importante. Esistono antidoti? Beh, c'è un caso virtuoso, per esempio, che è quello tedesco, e ce lo racconta la giornalista Mirka Mantero, che abbiamo raggiunto. Sentite. Mirka, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, hai un osservatorio privilegiato perché stai a Berlino, che è una città per sua natura molto aperta all'immigrazione e agli altri, e però che negli ultimi anni, lo ricordavo, ha vissuto ondate migratorie piuttosto importanti. Restituiscici una fotografia immediata su come quegli ultimi arrivi hanno riplasmato, se lo hanno fatto, l'urbanistica di Berlino. L'urbanistica di Berlino è già molto plasmata dall'immigrazione, perché ci sono quartieri come Neukölln, che è l'unico quartiere un po' problematico di Berlino, e Kreuzberg, che sono già abitati prevalentemente da persone di origine turca, che è la prima comunità per numero di persone, e poi da persone di origine araba. E queste comunità sono completamente aperte, però, perché la collaborazione con gli organi politici di quartiere è già iniziata negli anni Ottanta e quindi è stata consolidata nel tempo. E per queste ultime ondate del 2015, che poi è continuata nel 2016, sì. Ci sono grandi offerte di formazione, di corsi di lingua, ci sono grandi manifesti per la strada che dicono: chiamate questi numeri se volete imparare il tedesco, chiamate questi numeri se volete imparare un lavoro. E quindi il governo punta molto su questa, che finora ha funzionato. Sì, quindi accoglienza e formazione diffusa a livello di quartiere, per evitare quello che è il grande spettro, no, di questa puntata, i ghetti, le no-go zone in Svezia o comunità come per esempio quella di Molenbeek, no? Praticamente totalmente marocchina, in cui si sente parlare dialetto del Rif, pezzettini di Africa o di Asia incastonati nel cuore dell'Europa, che forse, la grande domanda di questa puntata, possono creare disagi o addirittura problemi. C'è il rischio ghetti in Germania? Ebbene, io non credo che ci sia questo rischio, perché finora non è successo. L'immigrazione dura dagli anni del miracolo economico. In Germania è stata molto vasta, e appunto quella turca è molto presente, molto diffusa. Finora non ci sono questo tipo di problemi, ci sono solo problemi legati alla microcriminalità, per esempio alcune zone di Neukölln, come dicevo prima, a tarda notte ci possono essere borseggi, risse, ma è legata, cioè, alla movida, perché queste sono anche le zone più popolate di notte. E come possono essere i Navigli a Milano, sì. Campo dei Fiori a Roma, uguali, sì. I problemi sono gli stessi. I tedeschi si preoccupano, però diciamo che hanno un livello di tolleranza del crimine molto più basso del nostro. Sì. Senti, e dal punto di vista economico, questi nuovi arrivi che impatto stanno avendo? Con che velocità si vengono inclusi nella società, vengono assunti, iniziano a essere produttivi? Al momento sta andando tutto abbastanza lentamente, devo dire. Sono stati molto pochi i profughi arrivati con l'ondata, addirittura solo una trentina mi risulta alla fine del 2016, le ultime statistiche disponibili, che erano stati effettivamente assunti dall'industria tedesca. Però sì, ci sono problemi, perché anche se sono forse manodopera specializzata, devono prima imparare il tedesco e devono anche imparare a interagire con la società tedesca. Sì. Quindi sostanzialmente quello che stiamo tratteggiando, il modello tedesco, è un modello di accoglienza diffusa basata soprattutto sul quartiere, ma soprattutto su un investimento di lungo termine. L'ultimissima domanda: la società tedesca sembra piuttosto aperta ai nuovi arrivi, però esistono anche dei rigurgiti di non li vogliamo. Ecco, come si inseriscono, quanto sono forti, quanto vanno a impattare su questi arrivi? Allora, per esempio a Berlino ci sono 100 moschee, nella parte orientale della città ce ne sono 4, tutto il resto è nella parte occidentale della città. E le regioni tedesco orientali sono profondamente avverse all'arrivo di profughi, infatti gli attacchi contro profughi isolati, singoli profughi camminavano per strada, oppure rifugi, oppure case per profughi, sono quintuplicati dopo l'apertura delle frontiere decise dalla cancelliera Merkel. Sono passati da 217 nel 2014 a oltre 1000 nel 2015. Sì, beh, insomma, numeri impressionanti. Senti, non era l'ultima, l'ultimissima è questa. Dal punto di vista strettamente architettonico, un massiccio arrivo di nuovi cittadini come quelli siriani porta il governo tedesco a costruire nuove case? Non credo, perché la Berlino sta comunque costruendo molto, perché c'è un enorme fabbisogno di case, anche perché sono molti anche gli europei che vanno a Berlino, e queste case saranno poi destinate anche ai profughi, perché per esempio a Kreuzberg, che è uno dei quartieri più costosi di Berlino, vivono comunità intere di persone di origine rom, con case assegnate dal comune. Sì. Non ci sono ghetti, non ci sono campi nomadi, ci sono case assegnate a famiglie. Insomma, modello tedesco per adesso pare funzionare, ci piace averlo raccontato in un'Europa che si trova a fronteggiare questa questione, non vorrei chiamarlo problema perché se ben gestito sicuramente non lo è. Grazie mille Mirka Mantero per averci restituito questa fotografia, grazie mille Mirka, buona giornata, buon lavoro. Era la voce di Mirka Mantero da Berlino, già giornalista per Radio Cora, adesso appunto collega freelance, che ringraziamo per questa fotografia tedesca che ci ha appunto restituito. E adesso, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, è arrivato il momento di apprestarsi all'ultima tappa del nostro viaggio attraverso le periferie europee. Come saranno le città del futuro? Beh, a volte un'idea ce la dà il passato. I più attenti ricorderanno che alcuni segnali non esattamente positivi ce le avevano date le banlieue parigine nel 2006, a partire da quelle rivolte che avevano manifestato tutto il disagio delle giovani generazioni, soprattutto di immigrati. C'è un politologo francese, si chiama Olivier Roy, che ha studiato molto bene il fenomeno. Antonio Tala lo ha raggiunto, sentite che cosa gli ha chiesto. Il professor Olivier Roy ha scritto che non è appropriato parlare di una radicalizzazione dell'Islam, ma funziona di più parlare di una islamizzazione delle frange radicali già presenti. Gli abbiamo chiesto se può spiegarci meglio questo concetto e qual è la relazione tra criminalità e radicalizzazione religiosa nelle periferie europee. Sì, se analizziamo i vari percorsi di questi giovani, si osserva che è vero che scelgono la strada di un Islam radicale, ma è anche vero che non hanno un passato religioso, non vantano né studi né pratica religiosa. Assistiamo quindi a un processo di radicalizzazione che effettivamente si conclude con l'adesione all'Islam più radicale, ma la prova che siamo di fronte a dei devianti che trovano infine uno scopo nell'Islam radicale consiste nel fatto che oltre la metà dei jihadisti che abbiamo identificato in Europa hanno in realtà un passato nella delinquenza, e si tratta sempre di reati nei quali la politica non c'entra niente, come lo spaccio di droga, i furti, le risse. Molto spesso, inoltre, questa radicalizzazione avviene in prigione. Siamo quindi di fronte all'islamizzazione di una marginalità che caratterizza già queste persone in una fase precedente. Donc on a bien une islamisation d'une radicalité, d'une marginalité qui les caractérise presque tous. Professor Roy, si può quindi dire che tutti coloro che hanno compiuto degli attentati e che si sono radicalizzati in Europa abbiano in realtà una formazione religiosa molto scarsa? Oui, ce sont presque tous des analphabètes en religion. Sì. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di analfabeti della religione che incontrano in prigione i dettami fondamentalisti oppure seguono dei corsi di religione dopo aver raggiunto la Siria. Ma all'inizio si tratta senza dubbio di analfabeti religiosi. Mais au démarrage, ce sont des analfabètes religieux. Professor Roy, lei ha parlato di errori commessi dalle amministrazioni delle città in Europa e in Francia in merito alla creazione di quartieri che poi si sono rivelati un brodo di cultura per radicalizzazioni di tipo diverso, che si tratti di radicalizzazioni criminali o religiose. Può raccontarci quali sono stati questi errori? L'erreur, c'est, disons, une mauvaise conception de ce qu'on appelle en France la politique de la ville. L'errore in Francia è stato in certe politiche urbanistiche che sono divenute politiche delle periferie difficili. Negli anni Ottanta abbiamo realizzato questi quartieri che, di fatto, sono a fortissima caratterizzazione etnica. Non abbiamo fatto attenzione a mantenere un equilibrio tra etnie differenti. Quindi, ad esempio, avveniva spesso che il candidato a un alloggio popolare in un condominio a maggioranza marocchina fosse necessariamente un marocchino. Subito dopo, lo Stato non ha visto le conseguenze dell'abbandono di questi quartieri da parte delle classi medie di origine francese, seguite subito dopo dalle classi medie di origine araba. Suivi d'ailleurs peu après par les classes moyennes d'origine musulmane. Non si tratta quindi di una questione etnica, ma di una questione relativa alle classi medie, perché in queste zone sono rimasti solamente i più poveri, i disoccupati, i perdenti, per così dire. E lo Stato si è dimostrato incapace di assicurare la sua presenza. Ha distribuito moltissimi soldi per provare a ottenere la pace sociale, attraverso ad esempio degli impieghi da mediatore sociale, ma tutto questo lavoro non ha fatto altro che rafforzare l'isolamento dei quartieri. Questa situazione non ha condotto a una vera apertura dei quartieri, anzi, lo Stato, senza volerlo, ha rafforzato la polarizzazione etnica di queste zone delle città. Infine, la sparizione della cosiddetta polizia di quartiere e lo smantellamento di molte scuole ha ulteriormente aggravato il problema. L'absence de mixité des écoles, eccetera, che ha rafforzato il problema. Quella che avete sentito era la voce di Olivier Roy. Trovo particolarmente interessante e intrigante la tesi che ribalta in qualche modo il luogo comune. Non è il problema, non è l'estremizzazione dell'Islam, ma è l'islamizzazione dell'estremismo. È una ideologia benefica, anche molto spesso poco articolata, poco colta, di poco spessore, che va a innestarsi dove? Beh, dove già c'è disagio, dove c'è alto tasso di disoccupazione, dove c'è emarginazione, dove non c'è inclusione. E trovo questa tesi di Olivier Roy particolarmente illuminante in tempi come questi, che certo non possiamo definire felici. È il momento di lanciare i titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Talia e Elisa Pancaldi che hanno scritto con me questa puntata, Andrea Roccabella in regia, voi per essere stati all'ascolto. Vi auguro intanto una buona serata e vi do l'appuntamento a domani, quando inizia l'appuntamento quotidiano con Nessun Luogo è Lontano, ore 16. Rincorreremo la stretta attualità cercando anche di darvi ogni tanto qualche spunto, qualche punto di vista un po' diverso. Intanto una buona serata da Giampaolo Musumeci e a domani.